Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. L'annuncio è dello scorso ottobre. I maggiori siti archeologici e musei di Roma sono stati finalmente connessi con una infrastruttura di banda ultralarga da 100 megabit predisposta per arrivare fino a 1 gigabit. Parliamo di una delle ultime fatiche del GAR, il consorzio che gestisce la rete italiana dell'Università e della Ricerca e di cui cura l'ampliamento e l'interconnessione con tutte le reti dell'istruzione e della ricerca internazionali e anche con la rete commerciale. Questo progetto, che si chiama Innovating Colosseo, è rilevante perché costituirà in pratica il primo esempio in Italia di come la banda ultralarga possa offrire opportunità del tutto nuove sia in campo artistico che in quello dello studio e della valorizzazione dei beni culturali. Per parlarcene abbiamo in linea con noi Sauro Longhi, che è rettore dell'Università Politecnica delle Marche, ma soprattutto presidente del Consorzio GAR. Buonasera Longhi. Buonasera a tutti voi. Senta, allora, ci faccia capire che tipo di applicazioni può avere la banda larga in campo artistico, e mi pare che un primo esempio l'abbiate dato proprio in occasione della inaugurazione di questa opera. Sì, nell'occasione dell'inaugurazione abbiamo fatto toccare con mano proprio le potenzialità della larga banda, con la possibilità di annullare il tempo di latenza, cioè il ritardo nella trasmissione e ricezione dell'informazione su una larga banda. Abbiamo prodotto un'azione teatrale e musicale con componenti in posizioni diverse, al Colosseo, al centro di ricerca dei Frascati e contemporaneamente nello spazio dove questa inaugurazione avveniva. Bene, con questa possibilità di trasmettere con una banda ultra larga si possono annullare i ritardi nella trasmissione. Quindi possiamo prendere 3 musicisti o 10 musicisti sparsi in giro per il mondo e farli suonare contemporaneamente, tenere un concerto insieme. Sì. Ecco, qualche altro esempio di quello che si può fare col digitale. Col digitale si possono aprire dei scenari favolosi. Pensiamo un attimo alla possibilità di digitalizzare le nostre opere d'arte. Digitalizzare un quadro, digitalizzare una statua. Con la fruizione che si possono dare questi dati si può, come dico io, toccare la statua, toccare il quadro, perché possiamo in qualche modo anche ricostruire un senso tattile una volta che disponiamo dei dati di quell'opera d'arte. Si fa? In questo caso si mette un guanto speciale, no? Un cyber guanto, chiamiamolo che rimanda anche delle sensazioni tattili. A quel punto uno può toccare, può vedere come il marmo è stato plasmato, come la pennellata è stata sciolta sulla tela, cioè si possono vedere e fare delle cose impensabili in un qualunque museo. Quindi con l'apertura dell'era digitale, con la valorizzazione delle opere d'arte in un contesto digitale, si possono rendere più fruibili tutte le opere d'arte. E poi è chiarissimo che chi si occupa di studio, naturalmente poter, come dire, avere rapidissimamente informazioni estremamente dettagliate è un vantaggio gigantesco. C'era un aneddoto che riguarda una famosissima pergamena, quella dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Ne abbiamo curata la digitalizzazione in occasione dell'Expo, proprio per costruire una copia digitale, e si è scoperto che la pergamena è tridimensionale, il tratto della matita, la stessa pergamena deformata, e quindi ne abbiamo costruito un'impronta tridimensionale. Abbiamo mostrato anche il lato posteriore di questa pergamena, cosa che generalmente non viene mai messa a disposizione. Beh, qui addirittura parliamo di un oggetto fatto di carta, quindi qualcosa che si rovina molto rapidamente. No? È impossibile interagire con questi oggetti nella loro versione originale. Sì, come lei prima diceva, la condivisione con la comunità scientifica e con gli studiosi di queste opere d'arte. E qui, ad esempio, prendendo questa pergamena, tutti chi hanno un interesse scientifico, un interesse culturale, ne possono in qualche modo proporre degli studi che altrimenti sono impossibili. Certo. Si crea anche sui beni culturali quella rete scientifica che lo è stata nel passato per tutti i problemi di fisica quantistica, certo, e altro, che hanno generato la nascita di internet e della rete. Senta, in Italia uno dei paradossi, diciamo, del nostro paese è che ne abbiamo così tante di queste antichità sparpagliate praticamente ovunque che finiscono addirittura per rappresentare un problema, no? Pensiamo quando si tratta di autorizzare uno scavo a Roma, sapere dove si trovano e che cosa c'è sottoterra diventa molto importante per magari dare una risposta in tempi ragionevoli, no? Certo, Cioè, molto spesso queste conoscenze noi ce le abbiamo, ma molto spesso sono protocollate in grossi registri e non c'è, come dire, la possibilità di verificare subito se quella zona, se quell'area è protetta, che tipo di protezione c'è, che tipo di manufatto c'è sotto il terreno. Invece avere tutte queste informazioni in formato digitale rende molto molto più snella l'amministrazione pubblica, soprattutto quando deve autorizzare, quando deve verificare, quando deve gestire il nostro patrimonio culturale. Eh sì, insomma, è il famoso problema delle, come dire, delle varie amministrazioni pubbliche che non si parlano, e per parlarsi serve poi questa connessione in banda larga, oppure non ce la si fa. Va bene, Longhi, ci fermiamo qui, ma domani continuiamo la nostra chiacchierata anche per capire un po' meglio lo stratto dell'infrastruttura di rete per quanto concerne le istituzioni di ricerca in Italia. Buona serata, Longhi. Buona serata a tutti voi. A domani.